Radio Popolare vi ha presentato La Caccia, caccia all'ideologico quotidiano, a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Buongiorno, grazie a tutti, buona domenica, grazie a Walter per il suo intervento, grazie a Luca Giulio per la regia. L'appuntamento rimane confermato a domenica prossima alla medesima ora. Per un'altra domenica d'ozio, almeno secondo i criteri qui esposti. Ci sentiamo. Buona giornata.